La manifestazione di domani, che giudizio ne dà? Come vi state preparando? Ci stiamo preparando, direi, con l'attenzione con cui ci si prepara a una manifestazione all'interno di un evento di queste proporzioni. Non vorremmo che tutto lo sforzo che è stato compiuto, anche il concorso da parte degli organizzatori a rendere questa manifestazione pacifica, non sia disperso e non sia poi contraddetto magari anche da qualche episodio che potrà essere isolato, ma comunque sciuperebbe un evento che nel suo complesso mi auguro verrà ricordato come un evento in una zona complessa e complicata, però che si è svolto nella massima tranquillità e anche siccome noi italiani purtroppo portavamo il peso del G8 di Genova, questa è la dimostrazione che nel nostro paese, forse al contrario di quello che avviene in altre realtà, si possono fare questi vertici, si può manifestare il proprio dissenso, ma tutto all'interno di una cornice di tranquillità e anche e soprattutto di non violenza.